In via Santo Stefano 38, presso il Labs Contemporary Art, ha inaugurato la mostra Ridisegnare lo spazio e siamo qui per parlarne con la curatrice Angela Madesani. Buongiorno Angela e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Grazie, buongiorno a voi. Allora Angela, parliamo un po' appunto della mostra Ridisegnare lo spazio. Innanzitutto le volevo chiedere chi sono gli artisti presenti alla mostra e qual è il filo conduttore che unisce in questa esposizione che è davvero molto eterogenea in realtà. Sì, beh, eterogenea però fino a un certo punto, nel senso che vabbè, io erano anni che pensavo di fare una mostra o comunque di riunire degli artisti che attraverso la fotografia ridisegnassero lo spazio, lo riprogettassero, partendo anche da artisti che conoscevo già e con i quali avevo già lavorato e con altri artisti invece con i quali non avevo mai lavorato. Quindi ho invitato artisti di diversa generazione, per esempio Massimo Vitali, per lui che è notissimo artista italiano che lavora da molti anni con questo linguaggio fotografico, queste fotografie molto grandi, molto, molto colorate, ecco, è l'uomo l'unità di misura, no? Il suo ridisegnare lo spazio è attraverso l'uomo. Andrea Schiefeller, che è quello che mi ha fatto pensare per la prima volta a questa idea, che io vidi una decina d'anni fa in una mostra in Trentino, ecco, Schiefeller secondo me ha proprio questo senso del ridisegnare lo spazio, perché lui è come se fotografasse le cose stando a 15 metri sopra, no? È come se scoperchiasse le stanze, le case, ci fa vedere la vita da un altro punto di vista. Partendo da lì, poi appunto Vitali da una parte e poi sono state invitate Marina Caneve, che è una giovane promessa della ricerca fotografica italiana, di cui abbiamo scelto un lavoro abbastanza particolare che lei ha fatto in Veneto sui marmi dei 7 comuni dell'altipiano di Asiago, e attraverso questi marmi, che sono poi marmi che oggi non si usano più tanto perché sono di colori meno puri rispetto, non so, al bianco di Carrara, e Marina ha ripreso queste forme, questi oggetti di marmo e ha creato delle quinte, addirittura una è una quinta cimiteriale. E poi Giulia Marchi, che ha fatto un lavoro sul Museo di Rimini, questo Museo di Rimini di arte contemporanea che non esiste in realtà, ma è un lavoro cui lei si è ispirata a Rem Koolhaas e al discorso del ridare vita ai rifiuti, no? Ridare vita a ciò che è scarto. E lei ha fatto questo lavoro nelle stanze vuote del museo, ripescando anche degli oggetti che ha trovato a terra, e ha rimisurato lo spazio, no? Ha ridato questa misura allo spazio. Chiaramente il legame è anche con la storia dell'arte antica, con tutta la valenza che per l'arte ha avuto lo spazio nei secoli. È chiaro, una galleria, no? Non si poteva mettere Leon Battista Alberti o Piero della Francesca, però il richiamo è quello il mondo a cui mi volevo rifare. E fino a quando sarà disponibile e come si può accedere alla mostra Ridisegnare lo spazio? Guardi, sto guardando proprio perché io non queste cose pratiche le so sempre malissimo. Secondo me durerà un paio di mesi e si può accedere tranquillamente andando in una delle zone più belle di Bologna, dove appunto si parla di spazio, perché cioè lo spazio delle 7 chiese di Santo Stefano, per cui è veramente un dialogo tra esterno e interno di grande interesse a mio parere. Assolutamente, effettivamente è in pieno centro, in via Santo Stefano 38, quindi insomma c'è anche la possibilità di passare tra il passato e il presente, no? Tra Piazza Poi Santo Stefano. La galleria, scusi, le dico solo questo, la certo. Galleria è uno spazio interessante perché è con tante stratificazioni, ma era una ex chiesa medievale che è sulla cui fondazione è stato costruito un palazzo, per cui ecco questa idea di trasformazione dello spazio che con la fotografia abbiamo chiaramente, possiamo documentare nel migliore dei modi. Perfetto Angela, io la ringrazio veramente per averci raccontato la mostra Ridisegnare lo spazio. Ricordo ancora una volta che si trova in via Santo Stefano 38 presso il Labs Contemporary Art. Grazie ancora. Va bene, grazie molte.